Gli Stati Uniti, il razzismo, le proteste e il voto. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. The reason why we are marching all over the world is we were like George, we couldn't breathe. But it's time to listen to those words, to try to understand them, to respond to them, respond with action. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. I saluti vi arrivano anche dalla squadra di Nessun Luogo: Antonio Tali, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. Oggi in assistenza c'è Laura Fagin e in regia Roberta Frisani. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti, ma siamo anche su Facebook. Cercate la pagina Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, dove troverete anche la diretta video. Infine Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, sono i due account da tenere d'occhio. Per il racconto, le storie che racconteremo appunto quest'oggi sono tutte incentrate sul ormai decimo giorno di proteste negli Stati Uniti. Cercheremo di fare il punto soprattutto su quello che è il diritto al voto, per noi assolutamente scontato, ma è una delle anime e una delle dinamiche che stanno emergendo prepotentemente anche dai vasti movimenti di piazza. 349-238-6666 e intanto noi sfogliamo i nostri dossier. Il primo ci porta in Libia perché Mohamed Gununu, che è il portavoce dell'esercito libico di Sarraj, di Tripoli, ha annunciato che gli uomini di Sarraj hanno preso l'intero controllo della città di Taruna, che era l'ultimo avamposto del generale dissidente e ribelle Khalifa Haftar in Tripolitania. Fonti locali riferiscono che gli stessi uomini di Haftar si sarebbero ritirati nottetempo da Taruna dirigendosi ad Al-Jufra, che è, il secondo gli osservatori, il prossimo obiettivo della controffensiva guidata dagli uomini di Sarraj e corroborata dalla presenza turca. A proposito di turchi, mercoledì scorso in un'intervista televisiva il ministro degli esteri di Ankara, Mevlet Cavusoglu, aveva detto: riappropriandosi della costa da Tripoli alla Tunisia, riconquistando gli aeroporti internazionali e guadagnando terreno attraverso operazioni aeree terrestre, il GNA, cioè il governo di accordo nazionale di Tripoli, ha sostanzialmente dimostrato che Haftar non può vincere questa guerra. Nel frattempo al-Sarraj, che era in visita ad Ankara, ha dichiarato: continueremo la nostra lotta fino all'annientamento del nemico in Libia, non accetteremo alcun negoziato con Haftar. E così sembrano, nel giro di poche settimane, essersi sparigliate totalmente le carte e soprattutto il destino di quella battaglia per Tripoli che sembrava sul punto di cadere da un momento all'altro. La benzina portata dai turchi evidentemente sul fronte di Tripoli ha dato i suoi frutti, ma come sapete quando si mette benzina si vuole anche avere qualcosa in cambio. Il primo ministro libico Sarraj ha promesso a Erdogan infatti la ricompensa, aperte virgolette, per la sua storica e coraggiosa posizione, con l'assicurazione di voler vedere le imprese turche in Libia durante la fase di ricostruzione. Vuole, come dire, constatare che quello che avevamo raccontato fin da subito con il coinvolgimento turco avrebbe portato sicuramente a mangiare spazi di altri attori storicamente presenti in Libia. Staremo a vedere se quello spazio verrà mangiato anche a quello che era lo spazio italiano. E poi Stati Uniti, Cina, Iran, uno strano triangolo per raccontare che cosa, prima di andare anche fisicamente con la voce quantomeno negli Stati Uniti. Ieri Google ha annunciato che alcuni hacker del governo cinese e iraniano hanno preso di mira gli account Gmail degli staff che lavorano alle campagne presidenziali sia di Joe Biden che di Donald Trump. Le forze dell'ordine sono state informate, ma per ora non vi sono prove o evidenze che gli account siano stati realmente violati. Questa notizia riaccende i riflettori sul rischio, che ormai conosciamo da parecchi anni, di ingerenze straniere nel caso di tornate elettorali particolarmente importanti, in questo caso quelle statunitensi. Anche il portavoce della campagna di Biden si è espresso, ha detto: siamo a conoscenza delle notizie di Google, ma siamo sicuri che per il momento non hanno avuto accesso appunto ai nostri account, e siamo consapevoli fin dall'inizio della nostra campagna che saremmo stati soggetti a attacchi di questo tipo e quindi siamo preparati. E poi in Sud America, perché nelle ultime 24 ore si è registrato in America Latina un netto aumento dei contagi. In generale siamo 1.153.938. È una statistica elaborata dall'ANSA sulla base dei dati di 34 nazioni dei territori latinoamericani. A guidare la classifica il Brasile, che ha oltre la metà dei contagiati. E poi, sempre in questa triste classifica, seguono il Perù, il Cile, poi c'è il Messico, Ecuador, Repubblica Dominicana, Argentina e così via. E infine una notizia che ha ridestato la nostra curiosità arriva dalla Repubblica Ceca, perché proprio lì continuano gli intrighi diplomatici tra Mosca e Praga. La Praga ha espulso due diplomatici russi dopo che un impiegato dell'ambasciata della Russia aveva diffuso voci su un previsto attacco al veleno contro tre esponenti politici a Praga. Si è espresso in particolare il primo ministro Andrej Babiš, ha detto: un dipendente dell'ambasciata ha inviato informazioni deliberatamente inventate su un attentato pianificato contro politici cechi. Abbiamo adottato misure appropriate e adeguate e dichiarato quindi persone non grate due membri del personale dell'ambasciata. Arrivano i primi messaggi al 349-238-6666 e allora chiedo a Roberta Frisani di portarci negli Stati Uniti. I can't breathe. I can't breathe. Oh, freedom. Oh, freedom. Everybody want justice. We want justice for George. He's gonna get it. He's gonna get it. And before I'll be a slave, I want us to not sit here. George Floyd did not die of common health conditions. He died of a common American criminal justice malfunction. Justice malfunction. Justice malfunction. It's time for us to stand up in George's name and say, get your knee off our necks. Time to listen to those words, to try to understand them, to respond to them, respond with action. The country is crying out for leadership, leadership that can unite us, leadership that brings us together, leadership that can recognize pain and deep grief of communities that have had a knee on their neck for a long time. In questo collage sonoro le parole, le invocazioni, ma anche tutta la commozione durante la cerimonia funebre di George Floyd. Intanto su queste note vi do gli ultimi aggiornamenti che a noi riguardano ancora una volta l'utilizzo di un'eccessiva forza da parte delle forze dell'ordine, scusate la ripetizione, statunitensi. In particolare, mi spiace come dire, mettere in gioco un po' di personalismo, ma mi ha turbato particolarmente un video che è stato girato da una stazione radio locale a Buffalo, la stazione radio è la WBFO, in cui si vede un 75enne, un signore, avvicinarsi a un cordone di polizia in assetto antisommossa, probabilmente per consegnar loro un casco, ha in mano un cellulare. Qualcuno degli agenti di polizia grida ai colleghi di sospingerlo via e in effetti il signore viene sospinto via, solo che viene sospinto via con violenza, cade, batte la testa e un istante dopo si vede del sangue fuoriuscire. Gli agenti lo oltrepassano non curanti. E purtroppo è uno degli ultimi episodi, ma non il solo, di continue violenze da parte della polizia, tanto che alcuni analisti si stanno chiedendo come e in che maniera stia gestendo l'ordine pubblico nelle varie città, oltre 140 quelle in cui si avvengono manifestazioni, dobbiamo ricordarlo, la maggior parte sono assolutamente pacifiche, e anche nelle ultime notti le violenze e i saccheggi che avevamo visto si sono diradati molto. Tanti gli episodi, diceva Austin, in Texas, alcuni agenti hanno sparato con proiettili di gomma colpendo un manifestante di 20 anni che ha riportato danni cerebrali e una frattura del cranio. A Fort Lauderdale, in Florida, giornalisti del Miami Herald hanno filmato poliziotti che colpivano con proiettili di gomma una manifestante, anch'ella manifestava pacificamente. La donna ha riportato una frattura dell'orbita oculare. Una compilation di video di questo genere, pubblicata stamattina su Twitter da un avvocato della North Carolina, mostra circa 300 episodi del genere. Nel frattempo però pare che si muova la macchina ufficiale, anche quella all'interno della polizia stessa. Per esempio, i due agenti che hanno spinto il signore di Buffalo per il momento sono stati sospesi senza paga, ma staremo a vedere con quali esiti. Ricordo invece che dei poliziotti coinvolti nell'omicidio di George Floyd, Derek Chauvin è accusato di omicidio volontario, gli altri tre funzionari sono accusati di complicità. Ricorderete, non sono intervenuti durante quegli 8 minuti. Intanto un ascoltatore mi scrive, peraltro bacchettandoci, che diamo solo una versione della verità, dicendo: continuate a ignorare che il medico legale ha dichiarato che è morto per infarto dovuto agli stupefacenti ingeriti, ma per voi vale la parola del medico della famiglia. Intanto, poi cito un numero, non riesco a capire, 2019, 30 persone uccise dalla polizia americana, 21 bianchi, 9 neri, ma anche qui zitti tutti. Ascoltatore, vedo che scrive parecchio, quindi ci ascolta, immagino. Abbiamo già interpretato e dato lettura di questa cifra, è chiaro che la maggior parte, non dovrebbe essere chiaro, attenzione, ma è chiaro che la maggior parte di questo tipo di esiti funesti, di eccessivo uso della forza, riguardano popolazione bianca, perché è un fatto statistico: la popolazione afroamericana è soltanto il 13% della popolazione. Se lei compara 21 bianchi e 9 neri, vede già che c'è una discrasia enorme, quindi abbia pazienza, ma non ci accusi di stare tutti zitti, perché non è assolutamente così. Peraltro il referto ufficiale: Floyd era positivo al Covid-19 e aveva fatto in precedenza uso di fentanyl, ma il fentanyl non è la causa della morte, che è sopraggiunta per arresto cardiopolmonare in seguito alla compressione del collo. Non so quali fonti abbia lei, gentile ascoltatore, però questo al momento il referto ufficiale è questo. Allora, c'è qualcuno che torna indietro sul tema Libia, Erdogan 10, Europa 0, Italia non pervenuta, e come dar torto a questo ascoltatore che sintetizza anche con linguaggio forse sportivo, fra l'altro non so a quale sport, se fosse il calcio sarebbe una bella batosta a quale sport, dicevo, si riferisce. In un altro ascoltatore, in tema di discorsi e valori, sarebbe interessante un confronto fra i discorsi di Bob Kennedy per l'uccisione di Martin Luther King e la retorica trumpiana, fra quando si cercava di unire una nazione e il giorno d'oggi, quando si tenta di polarizzare l'elettorato. Ma questa è l'accusa che viene fatta in primis anche da Joe Biden, per esempio. Un altro appunto che arriva da un altro ascoltatore per Musumeci, perché dice l'esercito libico di al-Sarraj e non dice le milizie armate di al-Sarraj. L'esercito libico è di Haftar, ma milizie sono tanto da una parte e dall'altra. La differenza è che l'unione di milizie, se vuole, ecco, di Tripoli è riconosciuta dalla comunità internazionale e dalle Nazioni Unite, mentre quello di Haftar no. Detto ciò, assolutamente sono una composizione di milizie, e su questo non ci piove. Abbiamo spesso raccontato come per esempio la milizia di Misurata giochi un ruolo fondamentale all'interno della compagine di Tripoli. Questi un po' di appunti e di domande che arrivano su di voi. Io da voi su di me, io vorrei darvi qualche altro spunto, e lo spunto arriva da un personaggio di imponente statura, non solo fisica. Lui si chiama Killer Mike, è un rapper, è un cantatore, un attore, un attivista statunitense, è di Atlanta. Abbiamo recuperato quel discorso esplosivo, tostissimo, secondo me è un cazzottone nello stomaco incredibile. L'ha pronunciato il 29 maggio del 2020 durante la conferenza stampa del sindaco di Atlanta. Sentite. Woke up up wanting to see the world burn down yesterday because I'm tired of seeing black men die. Mi sono svegliato ieri desiderando di vedere il mondo bruciare perché sono stanco di vedere afroamericani morire. Ma dobbiamo essere migliori di questo periodo storico. Dobbiamo fare qualcosa di meglio rispetto a bruciare e radere al suolo le nostre stesse case. Quello che posso dirvi è che se state a casa questa notte invece di andare in giro a bruciare le vostre abitazioni e la vostra città, avrete tempo per pianificare una risposta adeguata, di pensare ad una strategia, di organizzarvi e di mobilitarvi in modo efficace. E i due modi più efficaci sono in primo luogo portare il vostro culo davanti ad un computer e assicurarvi di essere censiti e registrati, così che le persone sappiano chi siete e dove siete. La seconda cosa è esercitare il vostro fantastico diritto di voto e andare alle elezioni locali e pestare democraticamente quei politici che non vi piacciono. C'è un giudice che ha mandato in prigione qualcuno a te caro senza ragione? Cambiate il giudice. Sta a voi la scelta ora. Volete un senatore più progressista? Ora è il momento di farlo, ma non è il momento di bruciare le vostre case. Non vogliamo vedere un ufficiale di polizia semplicemente accusato. Vogliamo vedere 4 ufficiali di polizia processati e condannati. Non vogliamo vedere edifici in fiamme. Vogliamo vedere il sistema fondato sul razzismo sistemico raso al suolo. And I say, brother, help me please. Questo è il discorso di qualche giorno fa di Killer Mike, che ha puntato il dito su quello che chiama razzismo sistemico, e tra pochissimo andremo un po' nelle pieghe di questo vulnus che coinvolge gli Stati Uniti. Ormai sono 10 giorni che i manifestanti scendono in strada, la maggior parte delle proteste pacifiche, vi sono state derive violente, vi sono state saccheggi, a volte anche con episodi bizzarri, se avremo tempo cercheremo di raccontarvene qualcuno per evidenziare anche i paradossi che possono avvenire in queste situazioni. 349-238-6666 per i vostri messaggi, i vostri commenti. Un ascoltatore tenta di interpretare il messaggio di un precedente ascoltatore e dice che in maniera complessiva non sto dipingendo benissimo gli Stati Uniti. Beh, certo, gli Stati Uniti in questo momento sono in crisi, non è un problema di dipingere bene o dipingere male. Ci sono manifestazioni in 140 città, sta accadendo quello che non era accaduto dopo i tanti incidenti, omicidi, eccessi di violenza da parte della polizia. Sto pensando a Ferguson per esempio, ma non soltanto. Quello che è interessante, e lo sentirete dalla viva voce anche di alcuni attivisti, è che forse c'è qualcosa di diverso in queste manifestazioni e soprattutto si punta a una parola sola, che è voto. Prima però, tra pochissimo andremo peraltro a New York in diretta con una politologa per capire cosa sta accadendo. Killer Mike ha parlato di razzismo sistemico. Che cos'è? Si chiama razzismo istituzionale o razzismo sistemico. Non si tratta di segregazione razziale con base legale, come quella in vigore nel Sudafrica dell'apartheid o negli Stati americani del Sud prima degli anni 60, ma è una forma di discriminazione ambigua, che permea dinamiche sociali e politiche. Il suo riflesso? Disparità di ricchezza, reddito, occupazione, alloggio, assistenza sanitaria, istruzione, potere politico e accesso alla giustizia. Il termine razzismo istituzionale fu coniato nel 1967 da Stokely Carmichael e Charles Hamilton. Il fenomeno, dicono i due autori, ha origine nel funzionamento delle istituzioni e quindi riceve una condanna pubblica molto inferiore rispetto al razzismo individuale. Per Valerie Wilson, direttrice del programma su razza, etnia ed economia presso l'Economic Policy Institute, la disuguaglianza razziale è stata normalizzata nella nostra società. I numeri? Il tasso di povertà della popolazione afroamericana è del 20,8% contro l'8,1% dei bianchi. Il reddito medio di una famiglia bianca è di $71,000 l'anno contro i $41,000 di una famiglia afroamericana. Inoltre, le famiglie afroamericane corrono mediamente un rischio doppio di avere grossi problemi economici in caso di una spesa improvvisa di $400. Prima dell'epidemia di coronavirus, il 16,7% della popolazione nera negli Stati Uniti era disoccupata contro il 14,2% dei bianchi. Sebbene in questo ambito si sia registrato un forte miglioramento negli ultimi anni, i laureati neri hanno ancora quasi il doppio delle probabilità di essere disoccupati rispetto ai laureati bianchi. In ambito sanitario, il 9,7% dei neri non ha un'assicurazione contro il 5,4% dei bianchi. Persino tra gli impiegati, i lavoratori di colore hanno il 60% di probabilità in più di non essere assicurati rispetto ai loro colleghi bianchi. Il coronavirus ha messo ulteriormente a nudo le iniquità del sistema sanitario nazionale. Proprio la mancanza di un'assicurazione, oltre al fatto di svolgere lavori particolarmente esposti a rischi, è uno dei motivi che ha penalizzato la popolazione afroamericana. Infine, esiste discriminazione anche nella ricerca degli alloggi. Questa è una sintetica fotografia di quella che i politologi, i sociologi chiamano razzismo sistemico, è qualcosa che permea l'intera società americana e che la società stessa, ma anche la politica e le forze dell'ordine non riescono evidentemente a neutralizzare, quasi come fosse un virus che continua a attanagliare la società statunitense. C'è qualcuno come Luca che fa un plauso al discorso di Killer Mike. Sarà vero che non c'è un nuovo Martin Luther King, ma le parole di Killer Mike mi ricordano che le rivoluzioni possono farle ognuno di noi. Qualcun altro mi chiede perché non parlate di Hong Kong e l'oppressione cinese, perché abbiamo dedicato puntate su puntate, la invito a guardare sul sito di Radio 24 e tutti i podcast in cui abbiamo analizzato con dovizia di particolari quello che sta accadendo. E qualcuno mi chiede, abbia pazienza, ma mi sembra che così stia spostando assolutamente la questione, mi fa due domande. Quante probabilità pensa di avere lei di finire con un ginocchio di un agente che le preme il collo soffocandola? Si faccia una domanda e si dia una risposta. Seconda domanda. Gli agenti uccisi da delinquenti sono innumerevoli, che non è una domanda. Noi gente onesta dovremmo andare a mettere a fuoco ogni volta, a ferro a fuoco il mondo intero? Grazie, così Mauro da Brindisi. Ma qui queste proteste non hanno messo a ferro a fuoco l'America. Ci sono state delle derive violente, ma la maggior parte delle proteste, io non so che immagini lei stia guardando, sono assolutamente pacifiche. Tanto che ho visto, navigando in particolare su un social che è utilizzato più che altro dagli adolescenti, ma che ultimamente anche il mondo adulto sta usando, che è TikTok, una serie impressionante di video in cui agenti di polizia si inginocchiano con quel gesto che ormai avete visto e riconosciuto dopo che alcuni giocatori di football americano hanno utilizzato durante l'inno nazionale americano in segno di protesta. Dicevo che si univano ai manifestanti inginocchiandosi e tantissimi cittadini bianchi che per esempio facevano da scudo a cittadini afroamericani che si inginocchiavano. Quindi la situazione mi sembra molto molto più complessa. Floyd, se verrà confermato, aveva tentato di comprare qualcosa con $20 falsi. Non è ancora chiaro se gli fosse consapevole che questi $20 erano falsi. L'amico che era con lui ha detto che non ha assolutamente reagito all'arresto. Questo non è un buon motivo per morire. Buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano ad Arianna Farinelli, politologa e autrice di Gotico Americano, insegna scienze politiche al Baruch College City University di New York. Arianna, buongiorno. Salve. Allora, la prima domanda è quella d'obbligo che si fa ai cronisti normalmente, ma io la faccio a una politologa perché lei sta a New York e sta vivendo, come dire, intensamente questi giorni. Che aria tira in questo momento nella Grande Mela? Uno slogan sintetico, poi andiamo a sentire la borsa e recuperiamo invece il discorso con lei, Farinelli. Che aria tira? Allora, io le proteste le vivo tutti i giorni perché arrivano puntualmente di sera sotto casa mia, perché alla fine della mia strada c'è la residenza del sindaco di Blasio, la residenza settecentesca che la città mette a disposizione del primo cittadino, quindi De Blasio abita qui. E gli studenti, perché si tratta di ragazzi, diciamocelo, sono tutti giovanissimi, di tutti i colori, bianchi e neri e tutte le gradazioni che stanno nel mezzo, quindi arrivano qui di sera, sono vestiti di nero quasi tutti, tutti hanno la mascherina, si siedono di fronte alla casa del sindaco, c'è un dispiegamento di forze di polizia che vi potete solo immaginare, con tantissimi furgoni di quelli con scritto correction, cioè in caso qualcuno venga arrestato viene messo subito nel furgone, ma non ci sono assolutamente tafferugli, violenze. Non si cerca il confronto con la polizia, quindi io vedo tutte le sere proteste pacifiche, cantano, hanno il pugno in alto, accendono candele, spesso hanno una foto di George Floyd. Poi che cosa succede? Il coprifuoco qui scatta alle 8, quindi alle 8 si alzano dalla mia strada e vanno verso il centro della città, quindi il distretto, quello che qui viene chiamato Midtown, dove ci sono le banche, gli uffici. Se vieni trovato fuori di casa dopo le 8 di sera, lì scattano gli arresti. Ma ieri sera 10 persone sono state arrestate qui a Manhattan. Sì. Quindi la situazione si sta calmando. Sì. Grazie mille intanto, Arianna Farinelli, per questo primo scorcio, questa fotografia che ci regala in diretta da New York. Piccola pausa, la borsa, poi torniamo. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... nessun luogo è lontano. Buona giornata e ben ritrovati ancora una volta, ascoltatrici e ascoltatori, in questa puntata di Nessun luogo è lontano. Abbiamo prima tirato le somme di quelle che sono ormai 10 giorni di manifestazioni, con alcune derive violente, con saccheggi, manifestazioni che potrebbero essere, nelle parole di Arianna Farinelli, lo ha fatto in una recente intervista, non a noi, ma magari ci spiegherà anche a noi questo concetto, un vero e proprio punto di svolta per la storia americana. Ci sono dei tratti di unicità rispetto ad altre manifestazioni che gli Stati Uniti hanno visto. Però Arianna Farinelli, prima di passare a parlare di questo tema, le vorrei far sentire la voce di Cliff Albright, che è il cofondatore di Black Voters Matter. È un movimento fondato nel 2016, attivo soprattutto negli stati del sud degli Stati Uniti. Sostanzialmente l'idea è di spingere e fare in modo che le persone di colore possano mettere la loro firma, la loro espressione di voto dentro le urne, perché la cosa non è affatto né banale e né scontata. Chi sono i Black Voters Matter? Sentite. So Black Voters Matter is a power building organization. Black Voters Matter è una organizzazione per aumentare l'influenza, emancipare e dare voce alla comunità afroamericana in tutti gli Stati Uniti, e in modo particolare nel Sud. Una delle cose di cui siamo convinti e che diciamo sempre è che le elezioni sono uno dei modi attraverso cui è possibile emanciparsi, ma questo non significa che sia l'unico modo per farlo. Questo processo include anche quello che abbiamo visto nelle scorse settimane dopo l'omicidio di George Floyd. Stare nelle strade, protestare e a volte sentirsi frustrati nel farlo. Tutto questo fa parte del processo di emancipazione. Quindi noi ci occupiamo delle elezioni e cerchiamo di fare in modo che le persone siano coinvolte in diversi aspetti per l'emancipazione e la partecipazione al potere. E le elezioni sono certamente un modo per farlo. Per questo noi mobilitiamo gli elettori negli stati in cui siamo presenti. E lo facciamo lavorando con gruppi che hanno legami e relazioni con le loro comunità, invece di cercare di fare questo lavoro dall'esterno. Noi investiamo in queste comunità, in questi gruppi, e lo facciamo 365 giorni l'anno. Le persone di colore sono importanti, le nostre vite sono importanti, non solo i nostri voti, giusto? Perché ci sono un sacco di persone che dicono di preoccuparsi dei voti neri, ma non si preoccupano delle persone nere. Noi ci prendiamo cura delle persone e delle nostre comunità e per questo sosteniamo il loro lavoro 365 giorni l'anno. Investiamo nei gruppi locali che fanno queste attività, che hanno relazioni e promuovono l'emancipazione. Le parole di Cliff Albright, Black Voters Matter, che va a richiamare una citazione di Black Lives Matter. In sostanza si pone l'accento su quello che è il diritto di voto per cambiare le cose e anche andare a sistemare alcune storture del sistema e della politica americana e della società. Torno da Arianna Farinelli per cercare di capire cosa c'è di diverso questa volta nella storia statunitense, che non sarà più la stessa dopo queste manifestazioni, ha scritto. Perché? Beh, anzitutto queste sono proteste che vanno avanti da 10 giorni, quindi diverso da quello che è accaduto per esempio nel 2014 a Ferguson, Missouri, dopo che Michael Brown era stato ucciso sempre per mano della polizia. Diverso anche da quello che è accaduto nel 1992 dopo l'uccisione di Rodney King. Lì le proteste andarono avanti per qualche giorno, furono violentissime, ci furono 63 morti. Quindi anzitutto la durata, sono 10 giorni, vanno avanti tutto il giorno e anche parte della notte, quindi dopo, ampiamente dopo il coprifuoco. Sì. E questo anche complice del fatto che l'economia in molti stati ancora è parzialmente chiusa. Qui a New York è chiusa, dovremo riaprire l'8 giugno. E ci sono 42 milioni di persone che hanno chiesto il sussidio di disoccupazione, tra queste un numero sproporzionato di afroamericani. Le scuole e le università sono chiuse, probabilmente rimarranno chiuse anche in autunno, quindi c'è anche molto tempo per protestare, molto tempo per stare in strada. Sì. I ragazzi di cui vi parlavo prima mi dicevano un paio di giorni fa, quando sono andata a parlare per capire chi erano, che venivano dal Queens e avevano iniziato a marciare la mattina presto, erano 12 ore di marcia che facevano. Diciamo, questo in tempi normali, in tempi non di Covid e non di crisi economica, sarebbe stato difficile. Quindi è la magnitudine, è la partecipazione, è la durata ad essere diversa rispetto alle proteste precedenti. E poi, come dicevate voi, la polizia sta agendo in modo completamente diverso. Abbiamo visto all'inizio c'è stata anche violenza. Pensiamo qui a New York, sono arrivate anche in Italia le immagini di quei manifestanti del tutto pacifici a Brooklyn che sono stati messi sotto da due auto, da due SUV della polizia. Poi abbiamo visto a Washington la carica della polizia contro anche lì i manifestanti pacifici. A Washington addirittura un Black Hawk, questi elicotteri da guerra, quelli del film Black Hawk Down. Sì, che era in dotazione alla Guardia Nazionale e sorvolava, no? Quasi a voler intimidire i manifestanti, che è stata una scena insomma particolarmente forte. Esatto, perché volava all'altezza dei palazzi proprio per cercare di scacciare questi manifestanti, perché Trump doveva fare questa passeggiata alla chiesa di San John Episcopal. Però a parte questo ci sono stati moltissimi poliziotti che si sono inginocchiati, hanno abbracciato i manifestanti, che in tempi di Covid non è la scelta migliore, ma sono stati comunque dei gesti estremamente toccanti. Abbiamo visto il capo della polizia di Los Angeles, quello di Minneapolis, il capo della polizia di New York. Questo non è mai accaduto prima, perché i poliziotti di solito quando una persona, un afroamericano, viene ucciso durante la under police custody, si dice in inglese, quindi quando è sotto custodia della polizia, i poliziotti di solito non vengono incriminati, se vanno a processo vengono anche assolti, quindi anche questo è diverso. E poi il momento storico ad essere diverso, perché abbiamo la pandemia con più di 100.000 morti, è un numero del tutto sottostimato. Abbiamo, come dicevo prima, una crisi economica per cui 42 milioni di persone hanno fatto domanda per avere i sussidi della disoccupazione. Quindi la tensione sociale è molto molto alta e da più parti si chiedono appunto riforme. E poi se volete ne parliamo più avanti. Sì. Riforme di come appunto terminare questo razzismo sistemico che pervade il paese da 400 anni a questa parte. E che peraltro Arianna Farinelli, politologa, autrice di Gotico Americano, insegna scienze politiche al Baruch College della City University di New York. Razzismo sistemico che un ascoltatore definisce una idiozia, i numeri forniti sono tendenziosi, la convivenza dell'etnia a causa di subculture si autoghettizza e poi si scontra. Non pensate, no, gentile ascoltatore, mi sembra un pensiero totalmente distorto, puerile e anche con un notevole sfondo razzista. Le altre voci invece che arrivano al 349-238-6666, qualcuno dice Rodney King non è stato ucciso, infermatevi, Matteo da Genova. Qualcun altro, i manifestanti americani dovrebbero entrare in Wall Street, emblema mondiale di tutte le disuguaglianze. Così Enrico, che poco prima scriveva, noto con dispiacere che in Italia ci sono sempre più persone con derive sovraniste, altrimenti non si spiega come si possa stare dalla parte di Trump. Ma gentile Enrico, qua io dal mio punto di vista non sto né dalla parte di Trump né dalla parte di Biden, cerchiamo di raccontare nella maniera più lucida possibile quello che sta accadendo. E così rispondo anche a un altro ascoltatore che mi dice: sto facendo una trasmissione contro Trump, praticamente non l'abbiamo citato, qua stiamo parlando di un problema sociale e politico degli Stati Uniti che ormai risale a decenni fa e che ancora non è stato risolto. Allora, Rodney King era stato picchiato, poi morto per altre ragioni, il pestaggio era stato violentissimo e aveva innescato poi le rivolte a Los Angeles nel 1992, questo per rispondere all'appunto dell'ascoltatore di prima. Io, Arianna Farinelli, le chiederei pazienza, facciamo un'altra pausa, andiamo a sentire le strade e poi l'ultima pagina di Nessuno. nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano accendiamo i riflettori su un movimento che non è Black Lives Matter, ma lo richiama, va a risuonare anche col nome, con lo slogan Black Voters Matter. E in un momento in cui ci si avvicina lentamente e stancamente, data la crisi, alle elezioni di novembre, cerchiamo di capire meglio perché questa organizzazione, questa associazione, spinga la comunità afroamericana a votare. C'è un punto interessante. Il portavoce, che fra l'altro è il cofondatore di Black Voters Matter, Cliff Albright, sostiene sostanzialmente che i partiti politici danno un po' il voto della comunità nera per certa, in particolare si riferisce ai democratici. Ma che cosa significa esattamente? Sentite. Well, ever since the 1960s, black... Fin dagli anni 60 gli afroamericani hanno votato in larga parte per il Partito Democratico. In alcuni momenti il consenso è arrivato al 90-95%, anche il 98% in alcuni segmenti della comunità. E a causa di questa situazione, tra alcuni politici si è diffuso l'atteggiamento a non impegnarsi per ottenere i nostri voti, perché noi non abbiamo nessun altro posto dove andare, dal momento che l'altra parte è pessima. Quindi la situazione è che uno schieramento ci tratta male e l'altro ci dà per scontati. Quindi vogliamo lanciare un messaggio. Chiunque voglia il nostro voto deve venire a parlare con noi, investire su di noi, investire con noi e impegnarsi in temi e politiche che sono importanti per noi. Invest with us, invest in us and deal with the policies and the issues that we say are important. E c'è anche un po' di rabbia nelle parole di Cliff Albright, cofondatore di Black Voters Matter, che al microfono di Ilaria Sesana ha cercato di spiegare l'importanza del lavoro che stanno facendo. Torno da Arianna Farinelli per tornare a quel concetto del razzismo sistemico che un ascoltatore stava bollando come idiozia. Ecco, Arianna Farinelli, a parte che l'ascoltatore forse dovremmo consigliare non soltanto di studiare la storia degli Stati Uniti, ma magari di viverci un po' e magari di viverci da afroamericano, e forse cambierebbe idea, epiteti e lessico. Detto ciò, in sintesi, Farinelli, come si smonta il razzismo sistemico che è così permeante? Anzitutto non è assolutamente un'idiozia, è un fatto storico, non è un'esagerazione. Gli afroamericani sono arrivati qui con una nave di schiavi nel 1619, sono arrivati in Virginia dall'Africa. A quello è seguito 250 anni di schiavitù, 90 anni di segregazione razziale. Poi c'è stato il movimento per i diritti civili negli anni 60, ma a quel movimento sono seguite una sorta di discriminazione, una serie di discriminazioni infinita. Le scuole sono rimaste segregate, c'è l'incarcerazione di massa, per cui gli afroamericani finiscono in carcere molto di più dei bianchi. Questo paese ha una popolazione carceraria di 2,5 milioni di persone. Agli afroamericani sono stati dati mutui assicurati dal governo e quindi non hanno potuto comprarsi casa, come è successo invece ai bianchi, che sono diventati in questo modo classe media. Insomma, la lista è molto molto lunga. Anche durante la crisi finanziaria del 2008 gli afroamericani vennero usati come target da alcune persone che lavoravano nelle banche. Queste banche, Bank of America e Wells Fargo, poi hanno dovuto risarcire perché andavano a cercare proprio gli afroamericani per rifilargli questi pacchetti di titoli tossici. Quindi il razzismo sistemico esiste. Esiste. Ecco, in sintesi, Farinelli, esiste una ricetta per combatterlo? La ricetta è lunga, bisogna innanzitutto fare una riforma della polizia. I poliziotti hanno già questo obbligo di portare queste telecamere quando sono in servizio, ma in alcuni casi non lo fanno. La fine dello stop and frisk, questo modo di fare della polizia americana, che è di fermare, perquisire e, aggiungo io, arrestare, che ha un racial profiling, cioè che usa come target ancora una volta gli afroamericani. Il sistema carcerario deve essere riformato. Non è possibile tenere in carcere, molte prigioni sono private, 2,5 milioni di persone. Ma quei 2,5 milioni di persone nelle carceri private lavorano, sono manodopera a basso costo. Questo è interessante. Esatto, come aspetto. Lavorano per un niente ogni giorno. Infatti, quando questo si è saputo, alcune importanti aziende americane hanno smesso di utilizzare detenuti per come loro forza lavoro. E poi c'è questa questione, visto che voi avete intervistato Black Vote Matter, Matters, che è quella del felony disenfranchising, e cioè del fatto che quando si commette un crimine e si è condannati a più di un anno di carcere, si perde a vita il diritto al voto. E quindi il 7% degli afroamericani negli Stati Uniti non ha diritto al voto. Ecco, alcuni stati si stanno stanno combattendo appunto per una riforma in questo senso, cioè per far sì che anche se si è commesso un crimine, soprattutto un crimine non certo quelli che per cui si va in prigione 20 anni, ecco, sì. Quindi non delitti contro la persona, ma reati minori, li chiameremo noi. Reati minori possono comunque votare, perché in questo modo si toglie il diritto al voto nella maggior parte dei casi degli afroamericani. Sì. Le parole di Arianna Farinelli, la ricetta per andare a smontare quello che anche nelle parole di Clifford Bright, ma esiste una vasta letteratura su quello che viene chiamato appunto razzismo sistemico o istituzionale, che è una delle piaghe che in questo momento la società americana si trova a fronteggiare, ma perché le è sbattuta in faccia dai grandi movimenti di piazza. Grazie mille Arianna Farinelli anche per questa ricetta, per questo commento. Lo ricordo, politologa, ha da poco scritto, ormai non neanche pochissimo, Gotico Americano, che è il suo primo romanzo, dice, in Scienze Politiche al Baruch College, City University di New York. Buona giornata e buon lavoro. (349) 238-6666 per i vostri messaggi e i vostri commenti. Prima però ancora la voce di Cliff Albright, cofondatore di Black Voters Matter, questa associazione che cerca di eliminare quella che è un'altra vulnerabilità della comunità afroamericana. Non è così facile andare a votare, è un diritto, è vero, però vi sono tanti tanti ostacoli che riguardano anche altre minoranze degli Stati Uniti d'America. Quali sono questi ostacoli? Sentite Albright. Sì, questi ostacoli sono una buona parte delle ragioni per le quali la gente non vota. Magari non ottengono tutti i documenti di identità, forse hanno qualche precedente, e anche se sono fuori dal sistema giudiziario da un po', non riescono a ottenerli. Oppure, come capita a molti, non si registrano nelle liste elettorali perché hanno perso fiducia nel sistema. Ritengono si tratti di un sistema truccato e magari succede. Certi aspetti non hanno del tutto torto nel ritenerlo. Credono che si farà in modo che il loro voto non conti davvero, e quando credi che il tuo voto non conti, allora non partecipi. Oppure magari credi che il tuo voto possa contare in astratto, ma ritieni che il candidato, una volta eletto, non possa davvero fare la differenza nella tua vita quotidiana. Insomma, se non credi che possa davvero fare la differenza, allora non voti. Ma questi ostacoli ai quali si faceva riferimento sono concreti, specialmente se, come si sta discutendo adesso negli Stati Uniti, l'intero voto dovrà svolgersi per posta. Il presidente Donald Trump sostiene che il voto per posta sia un reato. E chi ascolta queste cose può anche decidere di non andare a votare. Non sai neanche se proveranno ad arrestarti solo perché hai votato. Quindi tutti questi ostacoli impediscono alla gente di votare o lo rendono molto difficoltoso, perché non puoi essere entusiasta di votare quando sospetti che una parte voglia impedirtelo o cerchi di arrestarti. Queste le parole di Cliff Albright, cofondatore di Black Voters Matter, movimento fondato nel 2016, che cerca di superare anche quelle barriere che nelle sue parole avete appena sentito. Ci sono molti messaggi che arrivano al 349-238-6666. C'è qualcuno che fa presente che la maggior parte dei reati sono commessi dagli afroamericani e delle altre minoranze. Qualcuno dice, chi lamenta che i criminali uccidono più persone che la polizia, dimentica che dalla polizia ci si aspetta l'esatto contrario. Era il discorso che tentavo, forse maldestramente o poco chiaramente, di fare ieri. Chi è espressione dello Stato e deve far rispettare le leggi e garantire i diritti non può evidentemente scendere a quel livello. Ancora un altro messaggio: gli afroamericani commettono più reati e hanno più difficoltà a avere i mutui perché non possono offrire garanzie, e mi chiede se la rapina a mano armata è un reato minore, ma io non l'ho mai detto. e quindi non riesco a capire a che cosa si riferisca l'ascoltatore. Ci sono tanti altri messaggi e ho come l'impressione che dovremmo dedicare altre puntate alla complessissima situazione che esiste negli Stati Uniti e raccontarvi evidentemente ed eventualmente se le proteste andranno avanti. Per il momento mi fermo qui. Non senza ringraziare tutti voi che siete stati all'ascolto e avete animato il dibattito di Nessun Luogo, tutta la squadra. L'appuntamento è domani ore 10 con il meglio di e poi lunedì alle 16. Una buona serata intanto da Gianpaolo Musumeci.